Intanto dire che avendo assaggiato il vino faccio complimenti anche per quello, secondo me è molto buono. No, ma è vero. E poi no, no, è anche che ho già assaggiato parecchio, questo è vero. No, ho debuttato lì prima una cosa che secondo me non ho spiegato, cioè nel senso non si è capita e non l'ho buttata là un po' troppo male. Allora volevo spiegare un po' meglio, se posso abusare. Allora, è vero che in teoria il buon musulmano non beve alcol, quindi non beve vino, non beve birra, ma non è vero però, non lo sappiamo. Cioè, i giovani della nostra età, fra i 20 e i 30 anni, ne bevono parecchio, ma pure gli attivisti di Hamas si fanno di vodka, rum, eccetera. Il punto è fornire loro un vino o una birra, come in questo caso, che è frutto della loro terra, che è storico, che è un vitigno che sta là, che è lavorato da palestinesi e che rientra in realtà nell'esperienza culturale e della costruzione della società palestinese, è dirompente, perché rompe lo schema dello scontro di civiltà, se buona, in buona sostanza, per cui cioè, non so come dire, i ragazzi si fanno le canne, si bevono l'alcol, però lo fanno anche sapendo che nel loro, cioè, bevendo vodka importata tramite Israele, in qualche modo pagano una marchetta, scusate il francese, a un modello culturale che loro in fondo conoscono essere quello neoimperialista in buona sostanza. E se sono, cioè, generalmente se ne fregano, però è ben altra cosa il fatto di avere un vino proprio, perché è questo un'arma di secolarizzazione, cioè di sottrazione alle dinamiche invece di chiusura che dal 2000 in 2001 in avanti si sono concretizzate anche in nuovo fondamentalismo, se vuoi, o comunque in una forma politica dell'Islam politico, tutto di facciata, naturalmente, insomma, in gran parte di facciata. E il fatto che i ragazzi si possano bere un prodotto loro che esce da questa dinamica, che non è americano, per intendersi, che non è un superalcol americano, che non ha aderito, che rompe questo schema, è secondo me una cosa più che importante e significativa. Che poi lo bevano o meno, però vuol dire il fatto che in realtà cioè, è uno strumento di lettura alla grande, sì, lo, lo, lo,